Gli anni Ottanta appena conclusi sono stati un periodo oscuro e tormentato del paese Italia. Molte sono state le mistificazioni e le ideologie adatte a occultare i processi reali, fra tutte il pensiero debole, le pagliacciate del nuovo Rinascimento, l'Italia come grande paese industriale, eccetera. In realtà sono stati anni in cui il capitale a livello nazionale e internazionale si ristrutturava e operava un profondo mutamento interno, da molti definito come un'autentica rivoluzione. Intorno a questi processi alti, il grande ciclo dell'eroina, il dilatarsi del capitale illecito, la distruzione delle soggettività, le generose e drammatiche risposte delle controculture giovanili metropolitane e infine gli operai, chiusi nelle fabbriche, impotenti e attanagliati dall'angoscia per il proprio futuro. Durante un'inchiesta 1985-1986 ricordo la frase esagerata ma significativa di un lavoratore anziano. Siamo come gli ebrei, ora ci aspetta la soluzione finale. A quella inchiesta mai pubblicata avremmo voluto dare il titolo La paura operaia. La paura infatti sembrava essere la tonalità emotiva dominante, la Stimmung prevalente tra quei lavoratori che si vivevano come un gruppo di naufraghi. Il loro orizzonte era pesantemente occupato dal problema della droga, di cui quasi tutti sorprendentemente mostravano di aver avuto esperienza diretta, ovviamente tra i più giovani, o indiretta per il tramite di parenti e conoscenti. Ciò anche a sfatare le banalità che riconducono il problema droga esclusivamente alle fasce marginali giovanili. L'immagine dell'ambiente di lavoro appariva dominata dall'irruzione dell'innovazione tecnologica, percepita nella sua brutale quanto reale valenza di sostitutrice del lavoro umano.